ci corrende, non sorprende il pianoforte che ho abitato. L'hai tenuto giusto il tempo di un saluto. Che peccato, cose tue, cose mie, a casa tua, a causa mia. Via, ma via, non è poi che si va via. Posso più guardarlo, vedendomi lontano. Via da questo imbuto che si stringe ogni minuto. Via dai sogni e non ti fanno più dormire. Via, ma via, non è poi che si fa via. Ma è solo andare, andare, non vuoi più restare.